Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Secondo me è stata una cosa inventata. Mezza montatura. Perché qua devi aver paura, hai sentito cosa hanno detto in televisione? Ma io la televisione l'ho buttata, ho fatto come Napoleone a Capodanno, l'ho buttata dal balcone. Chi la ferma questa, tutta questa gente? Non la ferma nessuno. Non esiste il distanziamento adesso. Si abbracciano, si baciano. Stanno aumentando dappertutto i casi. Non abbiamo tanto, voglio dire, paura di virus, altrimenti non ci saremmo tante persone qui. Vi dico subito cosa voglio fare questa mattina con il mio pubblico. Oggi immagino che la parte delle persone che mi ascoltano in diretta saranno divise in varie attività. C'è chi fa la propria vita tranquillamente come se nulla fosse, chi ha una vita condizionata dai problema di prendere trasporti affollati, dal problema dei figli a scuola, cominciano ad esserci le prime avvisaglie di quel compagno che si dice che in casa abbia un caso di positività e quindi ci si mette l'allarma perché lo continuano a mandare a scuola, perché non rimane a casa anche lui, allora mando mio figlio, non mando mio figlio. Le osservazioni, diciamo, del settore scolastico, è quello più tabuizzato, di cui non si può parlare, di cui guai dire che la riapertura delle scuole può aver creato comunque qualche problema, anche se tutti ci auspicavamo l'apertura delle scuole. Ci sarà chi è preoccupato per la propria attività, per il proprio lavoro, perché dice: se richiudono ancora, io cosa faccio? Io che gestisco un bar, un ristorante, io che sono un imprenditore, che ho degli operai, dei dipendenti. Altri che fanno una vita più fortunata, fra i quali senz'altro mi metto io, possono continuare a lavorare come sto facendo io e hanno soltanto le preoccupazioni base che ognuno di noi, preoccupazioni per i figli, per la famiglia, per la propria salute, un raffreddore, un mal di gola come sento io questa mattina, sono già motivo di allarme, soprattutto se hai 66 anni. Poi ci sono quelli che fanno parte delle persone che hanno preso ieri a sassate i vigili e i poliziotti che dicevano di non essere assembrati. Sono quelli che sono ancora convinti, penso che saranno sempre meno, che sia tutta una grande montatura o che perlomeno c'è un allarme esagerato, in fondo di cosa mai si tratterà. Ecco, io ho riunito tutte queste potenzialità in un sondaggio. Abbiamo valutato, alla luce delle notizie di questa mattina, che sono tante, si sfogliano i giornali, a seconda dell'orientamento dei giornali, ahimè, c'è una lettura diversamente graduale del problema. Quindi non abbiamo una possibilità di avere dati oggettivi. Forse gli unici dati oggettivi sono quelli che abbiamo sentito da Nino Cartabellotta, che dirige l'istituto Gimbe, che ogni giorno analizza i numeri e fa delle previsioni sui numeri. Infatti noi abbiamo sentito qualche giorno fa, cioè esattamente previsto quello che sta accadendo questi giorni. Quindi lavorare sui numeri comunque ha qualche senso. Oggi vogliamo capire il sentire dell'italiano medio, visto che ormai sono convinto che chi mi ascolta in diretta a quest'ora è una buona rappresentazione di un campione medio degli italiani. Vi sottopongo un sondaggio al quale vi prego di rispondere subito a caldo, senza pensarci troppo, perché mi serve sapere l'immediata percezione, la sensazione che ognuno ha rispetto a quello che sta accadendo. 800 24 00 24, ecco il sondaggio. In queste giornate convulse, con notizie di contagi in aumento e nuovi provvedimenti che si susseguono uno dopo l'altro, il cittadino medio si perde tra le diverse e spesso contrapposte narrazioni che i media danno della situazione. Una situazione che tutti preoccupa, ma che tutti interpretano diversamente. Vogliamo oggi avere testimonianze dirette del sentire comune. Chiediamo ai nostri ascoltatori di darci la loro impressione o la loro lettura dello scenario che ci troviamo a fronteggiare. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se vi sentite più... 1. Fideisti anti-apocalittici. I toni apocalittici producono ansia esagerata. La salute rischia di essere un nuovo idolo. La fede ci insegna che Dio non ci abbandona. 2. Rigoristi antipopulisti. Ci troviamo in una reale emergenza perché, dall'inizio dell'estate, tutti i cittadini hanno ignorato norme di sicurezza cedendo a un irresponsabile lassismo generalizzato. Ora ne paghiamo giustamente le conseguenze. 3. Colpevolisti governo ladristi. La situazione è difficile perché la politica, per la ricerca del consenso, non ha fatto nei mesi passati scelte coraggiose e drastiche che la ragione dettava. E ora si corre tardivamente ai ripari. Quindi vi riassumo le tre posizioni che secondo noi sono quelle che maggiormente danno uno spettro che possa rappresentare tutti i punti di vista. Avete visto, sono tre posizioni. Gruppo 1, numero 1, fideisti antiapocalittici. Questa frase, i toni apocalittici producono ansia esagerata, la salute rischia di essere un nuovo idolo, la fede ci insegna che Dio non ci abbandona, non è nostra. Ci siamo ispirati all'intervista oggi sulla Verità a Monsignor Camisasca, che è il vescovo di Reggio Emilia Guastalla, che è intervistato da Maurizio Caverzan, dice questo: ingigantire il pericolo genera solo visioni paranoiche della realtà. Bisogna affidarsi a Dio e seguire la fede, perché la salute rischia di essere un nuovo idolo. E ahimè, mi sento io debole, limitato e peccatore, perché a questo idolo al quale affido la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che conosco, devo dire, probabilmente farà di me un'anima persa, perché non ho fede in altre soluzioni. Secondo, rigoristi antipopulisti. Sono quelli che se la prendono un po' con il nostro comportamento senza farsi fuori. Ci troviamo in questa situazione perché da un certo punto in poi abbiamo smesso di mantenere le distanze, di metterci le mascherine, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto le vacanze, abbiamo lasciato liberi i nostri ragazzi di fare quello che maggiormente aggradava, abbiamo fatto manifestazioni perché tutti tornassero a scuola, perché sennò mancava la socializzazione, e adesso ci troviamo in questa situazione, è un po' anche colpa nostra. Terza è una posizione politica, lecita, giusta, legittima, assolutamente non criticabile. Sono i colpevolisti governo ladristi. Perché governo ladristi? Perché la frase classica piove governo ladro è a debitare al governo quelle che sono appunto ogni situazione che ci colpisca. Dice, la situazione è difficile perché la politica ha evitato di fare scelte coraggiose, razionali. Perché? Perché aveva paura di scontentare quella o quell'altra parte di un possibile consenso. Quindi abbiamo tergiversato, abbiamo tenuto le maglie larghe, abbiamo voluto fare i buoni, abbiamo detto ma no, non succederà nulla, non avverrà più nulla, andrà tutto bene. Ma in realtà ci rendiamo conto che c'è un po' uno starnazzare in una situazione abbastanza complicata. 800240024, Gigi da Roma, primo a rispondere. Guardate, è importante le vostre risposte, perché tracceremo alla fine una sorta di ipotetica misurazione, quello che è il sentire generale, in base alle vostre risposte. Allora, Gigi da Roma, qual è innanzitutto la tua posizione? Buongiorno, sono contro il governo. Colpevolista, governo ladrista. Colpevole di inettitudine, incapacità, di veramente gente che non sa veramente neanche gestire un condominio con tre famiglie, perché ecco. Io ho fatto solo un'analisi molto spietata, io ho ancora 70 anni lavoro e mi rendo conto dell'inettitudine di questa gente, proprio incapaci. Tu cosa avresti fatto se avessi avuto tu la responsabilità? Come ti saresti comportato? Allora, io avrei fatto una cosa. Vogliamo veramente cominciamo con i trasporti. Allora noi accusiamo, noi il governo, i diritti. Ti sento malissimo, Gigi, purtroppo non posso entrare nel dettaglio. Comunque è chiara la tua posizione, tu ce l'hai con il governo, sei quelli che dicono che bisognava fare di più in maniera più decisa, nei punti nevralgici invece ci sei persi, ti anticipo, in bonus monopattini, in bonus vacanza, quando in realtà bisogna pensare in anticipo magari ai trasporti. Alessandro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Tua io posizione. Ho detto Sì, ho detto due, però in realtà è un 2+3. Cioè, vedo che c'è una corresponsabilità tra il comportamento. Però se guarda, ti potrei chiedere una gentilezza, forza un pochino, è più due o tre? Perché vorrei purtroppo abbiamo siamo dei dati netti. Due. Allora, diciamo, dato per scontato che ci sono state, diciamo, delle lacune dal punto di vista delle istituzioni, in realtà se tutti avessimo avuto un maggior livello di coscienza individuale, oggi staremmo meno preoccupati, meno angosciati. Lorenzo da Padova. Sì, due Gianluca. Però anche con è colpa nostra. Sì, vediamo, sì, spiega. Ma con un piccolo asterisco, posso? Sì. Ecco, allora, sì, imprudenti, faciloni, tutto quello che vogliamo, però cavoli. Le metropolitane, gli autobus sono strapieni, la gente li deve prendere, allora bisognava fare qualcosa di più, molto molto di più, d'accordo? Scusami, ma ho detto oggi tossisco e fa parte spero delle intemperie stagionali. Allora, vediamo se riesci a dettagliare nel punto 2 quali sono state a livello di macro dimensione, senza entrare nello specifico, le maggiori leggerezze che noi abbiamo messo in atto, per cui oggi ci troviamo preoccupati. Vediamo, diamo per scontato, i trasporti non c'erano, c'erano problemi così, ma a livello individuale cosa potevamo fare che non abbiamo fatto? Questo è il senso del punto 2. Ah, sicuramente le movide notturne, serali dei giovani, cioè la scuola è sicuramente sicura. Non c'è dubbio, pochissimi contagi, vengono tutti controllati, eccetera. Ma poi i ragazzi escono. Non è così esatto il dato, perché diciamo almeno nel Lazio ha fatto. I dati nel Lazio sono che non è esattamente proprio così. Diciamo la tendenza che in effetti nelle scuole ci bisogna dare un po' di attenzione. Mi spiace dirlo, ma fa parte dei dati. Comunque, diciamo questo: la scuola non è un dato individuale. La scuola che è andato a scuola l'ha fatto osservando le regole. Poi, se la scuola non ci sono state tutte le sicurezze possibili, è una cosa che si accerterà. Al momento la scuola è fuori discussione, si va a scuola. Però dal livello individuale, le movide e poi cos'altro? Le movide e poi l'uso che si è fatto dei ristoranti, delle discoteche, delle palestre. Allora, diciamo, cioè... Sintetizzo. Nel nostro tempo libero, nel momento della distrazione, del disimpegno, ci siamo dimenticati che eravamo in una situazione di emergenza, perché lasciamo perdere, gli autobus vanno presi, a scuola bisogna andarci, per dicendo, però nel momento andavamo al ristorante, siamo andati in vacanza, siamo andati a spasso, abbiamo lasciato giustamente, lecitamente, che i nostri giovani si godessero la loro giovinezza, bisognava stare più attenti. Questo è il senso del punto 2. Domenico da Bari, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Allora, io sono sicuramente per la numero 3 e in quanto calcoliamo che stiamo parlando del 5%, quindi questo 5% che probabilmente andrà in terapia intensiva. Posso chiedere una gentilezza? Oggi non facciamo interpretazioni, perché sennò apriremo non ho tecnici a disposizione per confutare o confermare. La sua percezione, il suo senso, non mi serve che sia appoggiato da elementi razionali. Cosa sente lei rispetto a queste tre categorie? Enorme, perché hanno avuto tutto il tempo per poter gestire... Categoria 3, è una chiara categoria 3 la sua, diciamo, sì, una responsabilità istituzionale, no, mi sembra molto chiaro. Lorenzo da Verona ha parlato? Sì, Domenico da Bari. Ho parlato adesso. Ha parlato, Domenico, scusa, lo so, c'ho un po' di difficoltà perché mi manca una videata. Lorenzo da Verona. Buongiorno, dottor Nicoletti, eccomi qua. Sì, l'ascolto. Anch'io voto la soluzione 3, perché la percezione è quella di una attesa durante i mesi estivi eccessiva, non interventista da parte delle istituzioni sia centrali che locali, perché il vero nodo che ritengo sia la cosa più grave sono i trasporti. Da quando le attività sono riprese è aumentato il contagio, è una deduzione logica. quest'estate pare che sia colpa perché le persone sono andate al mare, sono andate in montagna, ci si è mossi, ma voglio dire, il periodo di incubazione non è che arriva dall'estate, arriva da qualche giorno prima, una settimana prima, 10 giorni prima. Quindi si doveva intervenire con una modifica sui trasporti. Diciamo, con la politica ha privilegiato la ricerca del consenso piuttosto che delle soluzioni drastiche che magari rende impopolari, però cautelano più cittadini. Mi sembra che il quadro sia chiaro. Al momento vedo una scarsissima attenzione, quasi nulla al punto 1, che c'è ancora un tono apocalittico, un'ansia esagerata, che la salute rischia di essere un nuovo idolo. Mi dispiace per il vescovo di Reggio Emilia Guastalla che questo sostiene, ma al momento è poco sostenuta questa tesi. Però se qualcuno pensa che ci sia ancora un'esagerazione, un'ansia generale, un allarmismo generale, lo dica tranquillamente. Ah, ecco, Pilar da Milano, facciamo in tempo velocemente. Pilar. Ciao Gianluca. Sì, Pilar, allora lei è la posizione 1, ecco, invocavo qualcuno per essere equi, che cosa pensa lei, Pilar? Allora, penso che siamo un paese dichiarato cristiano, dobbiamo avere fede in Dio che non sbaglia, ovviamente non vuol dire menefreghismo, vuol dire avere tutte le precauzioni del mondo, ma affidarci anche a un potere più elevato, non pensare che Dio secondo lei salva soltanto chi crede in lui e gli altri devono morire, oppure salva tutti? Salva tutti. C'è una allora uno può anche non avere fede in Dio, tanto si salva lo stesso, allora. Si salva a modo suo, non ci dà quello che vogliamo, ci dà quello che ci serve. No, basta star bene, poi il resto è tutta un'ipotesi. Come la pensa lei? Vabbè, lei è Pilar, è giusto. Ma Pilar, io ho un'enorme attenzione e comprensione per tutti i punti di vista. Lei è d'accordo con quello che diceva Monsignor Camisasca, dice attenzione, pensiamo troppo alla salute, quindi pensiamo troppo al benessere secolare, ma abbiamo fede in Dio, andiamo in chiesa che ci farà bene senz'altro. Fermiamoci un istante. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Melog 800240024, riassumo il sondaggio di oggi. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli e Fabrizio Intonti che mi mettono in onda. Oggi abbiamo chiesto al nostro pubblico di dare a caldo, senza pensare a cifre, senza cercare tabelle, qual è la loro sensazione rispetto alla situazione attuale dell'emergenza Covid. Sono giornate piene di notizie, ma ci sono tre atteggiamenti fondamentali che abbiamo individuato, che vorremmo che il nostro pubblico ci definisse. Così statisticamente facciamo un piccolo modello di capire come viene sentita l'attualità. La prima posizione, numero uno, fideisti antiapocalittici, sono quelli che dicono ma state esagerando, c'è un pessimismo generale, abbiamo fede, abbiamo speranza, in una posizione confessionale, una posizione laica, diciamo ma no, ma il mondo avanti, continua, non possiamo compromettere la nostra vita per in fondo dei numeri risibili di emergenza. Rigoristi antipopulisti, è colpa nostra, abbiamo sbagliato, abbiamo messo in atto un lassismo eccessivo quando potevamo prendere precauzioni, non l'abbiamo più presa perché pensavamo che tutto fosse passato e adesso paghiamo. Terzo, colpevolisti governo ladristi, è colpa del governo, è colpa delle istituzioni, per mantenere il consenso non sono stati abbastanza rigorosi, non ho avuto il coraggio di chiudere laddove andava chiuso. Qualcosa di doloroso, ma che oggi ci avrebbe fatto stare più tranquilli. E devo dire che al momento le posizioni sono abbastanza equilibrate fra il secondo e il terzo punto. Devo dire che l'area dubitativa, l'area che pensa che in fondo il rischio è minore di quello che si dice, il complottismo, il negazionismo, di cui non si parla naturalmente più, ma almeno quelli che dicono beh state esagerando, oggi sono piuttosto limitati. Roberto da Monza, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Ma io penso che sono anch'io preoccupato, diciamo, di questa escalation. però ripeto. Mi formuli la sua sensazione. Quando uno è preoccupato, affida a qualcuno la responsabilità, la propria preoccupazione. Lei a cosa l'affida? La responsabilità è di tutti, ma non dobbiamo piangerci addosso. Io ritengo che quindi sia un pochino sulla prima posizione, siamo un po' esagerati. Secondo me è importante controllare le persone e quando si identifica, quando si trova qualcuno che è ammalato, curarlo, ma non devo chiudere in casa gli altri 150.000 positivi che hanno fatto il tampone. Diciamo, diamo un po' di respiro anche alla prima posizione. Lei tutto sommato dice attenzione, i messaggi che arrivano sono tutti messaggi negativi, diamo un'informazione un pochino più equilibrata, quindi diciamo la prima posizione sul fatto affidiamoci a Dio era un po' esagerata, teniamo una prima posizione, manteniamo lucidità. Ecco, Paolo da Roma. Eccomi, buongiorno. Io sono della prima posizione. Sì. Soprattutto perché sono cristiano e perché ho fede e quindi ho nel rapporto con Dio una priorità per leggere la realtà, il che non mi fa vedere la preoccupazione. È un punto di vista, un punto di vista che va rispettato, non si può ridere su chi dice io prego e pregare secondo me è la cosa importante. C'è anche questa posizione, siamo un paese a matrice cattolica, quindi qualcuno dovrà venire fuori che dice questo. Sono contento che qualcuno lo dica, sennò è ipocrisia. Chi pensa che pregando comunque sia è una forma di conforto, allo stesso tempo che la preghiera possa influire sulla realtà attraverso la grazia divina, è giusto che lo dica. Mi piace anche capire quanto sono rappresentati, quindi perfettamente rispettabile la posizione di Paolo. Roberta da Bergamo. Buongiorno Nicoletti, innanzitutto io premetto che vengo da una zona, sono nella provincia di dove c'è stata veramente un massacro, cioè chi l'ha vissuta come me in prima persona, gente giovane, perché qui non si vuole dire che è morta anche gente giovane, e quindi, io sto vivendo, questa mattina, devo essere sincera. Qual è la sua posizione questa mattina? La mia posizione è la 3. Allora, io lavoro nella scuola e vi posso dire che a scuola si è mantenuto veramente, c'erano dei protocolli e ci sono tuttora dei protocolli alti, ma appena i ragazzi escono fuori, già su piazzale, finimondo. Cioè, come Il problema che abbiamo tutti notato dai primi giorni, la scuola è rigorosissima nei distanziamenti, banchi in monoposto, le sanificazioni, ma fuori del recinto scolastico i ragazzi fanno quello che hanno sempre fatto da tutte le generazioni e questo crea dei problemi, è inutile negarlo. Quindi lei è comunque sulla terza posizione. Massimo da Genova. Buongiorno dottor Nicoletti. Quale posizione assume lei? Tre, non per una questione politica, attenzione. No, io ma io vi reputo abbastanza intelligenti questa mattina di mettere da parte la politica e fare delle valutazioni basate su una sensazione data da un'analisi magari subliminale della situazione, quello che vi sentite dentro, voglio sapere. Quindi lei si sente dentro che poteva essere fatto di più da un punto di vista istituzionale, questo è il suo punto di vista. Esatto, anche perché noi siamo stati colpiti con i nipotini, ce ne sono anche due in arrivo. È stato un momento brutto, terribile, adesso va tutto bene, però dovevamo quest'estate tenere un po' chiusi i cancelli, i buoi sono scappati tutti, capito? Non lo dico per colpevolità. Quindi bisogna avere coraggio quest'estate, quando tutti dicevano i nostri giovani hanno diritto alla loro vita, ci uccidete, chiudete le discoteche, diciamo, era il momento di dire a qualcosa bisogna rinunciare, si rinuncia alla piacevolezza del tempo libero per poi avere un autunno un po' più tranquillo, che non abbiamo infatti. Giuseppe da Pesaro Urbino, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletti, io sono per il punto 2. Colpa nostra? È colpa di chi ci ha indotto a capire che questo è frutto del male che abbiamo noi dentro. E quindi è un discorso un pochettino più relativo all'Inquisizione, relativo al Concilio di Trento che ci ha fatto tornare. Vabbè, lei diciamo, la posizione diciamo impugnata da un gruppo di pensatori che tutto sommato era una sorta di attentato alla nostra libertà, quindi noi in nome della libertà, c'erano ragazzi che girano per strada libertà, libertà, ai vigili che dicevano mettete la mascherina, c'è stato, diciamo, un cattivo maestro che in maniera artata oppure secondo un suo pensiero turbinoso e ondivago ha detto: vi vogliono limitare la libertà, vi mascherano per dominarvi meglio. Qualcuno ci ha creduto e quindi ha pensato che poteva comportarsi come voleva. Mi sembra chiara la posizione. Lorenzo da Bologna. Sì, buongiorno Salve. Io sono nella posizione 3 e penso che la colpa sia del governo, perché durante il lockdown si poteva fare un capillare monitoraggio tramite i tamponi trovando tutti i focolari. Posso dire una cosa? Se tramite la posta, che ha continuato a funzionare durante tutto questo periodo nel lockdown, tramite la capacità capillare dei postini, consegnare i tamponi e poi un addetto passava a fare un tamponamento, a quest'ora ma di Fulvio, capivamo... non so dare risposta, non so se ha senso un tampone fatto a casa da una persona che poi lo manda. Penso che ci voglia qualcuno che abbia la responsabilità poi che il tampone corrisponda alla persona, se è fatto nella maniera giusta. Non so se un'operazione del genere avrebbe un suo valore scientifico, però prendo atto della sua posizione. Gabriele da Firenze. Sì, dottor Nicoletti, buongiorno. Sì, io mi sento per la posizione numero uno. Numero uno, lei, allora, che devo dire, la meno rappresentata, però è presente. Finora mi dicono i sondaggisti che siamo sempre a metà fra la seconda e la terza posizione. La può dettagliare un po' meglio la numero uno, che noi l'abbiamo impostata un po' drasticamente su un articolo che avevamo letto, però ha delle sfumature di altro tipo. Lei pensa che sia esagerato nell'informazione del rischio? Sì, allora diciamo che l'informazione è giusta e ci vuole. Forse sicuramente c'è un po' di esagerazione e per me, per il mio pensiero, questo potrebbe essere un'occasione giusta per spostare un po' il nostro orizzonte, il nostro punto di vista, come diceva il cardinale, dal corpo che in questo, diciamo, ultimamente è diventato un po' il protagonista, spostarlo verso lo spirito, di cui secondo me abbiamo un po' perso conoscenza. Sì. Questo perfetto, poi lei capire che non tutta l'umanità ha questo dono della fede e pensa secondo una concezione che ha una sua presenza storica senz'altro, e quando vengono anche le pestilenze, le pandemie sono segni comunque che dobbiamo in qualche maniera, una sorta di memento mori, ricordarci che esiste qualcos'altro e quindi tutto sommato accettare la piaga perché questa ci porta a una perfezione. Questa è una posizione etico-confessionale religiosa, però non tutti ce l'hanno. Le persone quando stanno male vogliono dire qualcuno che le curi, gli tolga la sofferenza della carne, la sofferenza umana. Chi ha questo dono splendido dell'elaborazione del dolore come via di perfezionamento e di apertura all'assoluto giustamente si esprime e lei si è espresso. Fabrizio da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Adesso lo fermo. Buongiorno, però devo fermarmi un attimo a dare le notizie alla borsa. Resti lì, faccio un respiro, la chiamo fra un istante. Melog 800 24 00 24. Io vedo un sondaggio analogo al nostro che è citato dall'Huffington Post. Dice che il 53,6% degli italiani accusa la politica perché siamo impreparati alla seconda ondata, che più o meno, vedete, corrisponde al nostro sondaggio casalingo. Anche a noi più o meno risulta che una metà delle persone che ci chiamano accusi, diciamo, è sia per la terza posizione, quella dei colpevolisti governo ladristi. Adesso vediamo stiamo elaborando nei limiti che lo possiamo fare con le telefonate, con i messaggi che ci arrivano. Vi dirò alla fine più o meno quello che avete pensato voi, pensate voi rispetto all'emergenza. Antonio da Pisa. Ciao, buongiorno. Quale posizione? Dunque, la mia posizione è la seconda, perché credo che ognuno è responsabile delle proprie azioni, però è anche vero che non ci si salva da soli, quindi è importante avere un'opinione o un'azione del governo. E anche sul primo c'è punto, stata, diciamo, una corresponsabilità. Il governo è stato un po' morbido nelle soluzioni e un po', diciamo, lento nel prendere per intervenire nei posti dove si doveva intervenire, trasporti, sanità, prevenzione e via dicendo, ma anche la popolazione, diciamo, non è che è stata molto responsabile. Comunque è più una seconda posizione la sua. Provincia d'Alessandria, Germana, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, anch'io sono per la seconda posizione. Ritengo, come ha detto il signore prima di me, che tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Ci possono essere state forse delle regioni che sono intervenute in modo meno razionale, però penso che dipenda per parecchio da noi. In generale, se stavamo più attenti noi, avremmo diciamo anche assorbito meglio le lentezze istituzionali. Fabrizio da Firenze. Fabrizio è caduto. Ricordo che questo sondaggio non ha un valore scientifico, serve soltanto per capire un campione umano di italiani che sta in diretta quest'ora, ascolta questa trasmissione, che è veramente rappresentato più o meno da tutti quelli che rappresentano per categorie la nostra società, si esprime in questa maniera, con uno strumento che non, ripeto, non ha strumenti scientifici, statistici, quindi quando noi diamo delle percentuali diamo solo in base alle persone che ci hanno chiamato, che però ha un suo valore, perché abbiamo visto che sondaggi fatti con attenzione, istituti che senz'altro hanno molti più mezzi e molta più disponibilità di campione, danno risultati simili. Quindi in generale potremmo dire alla fine di questa trasmissione che il sentire generale degli italiani rispetto al problema è diviso in questa percentuale tra chi pensa che sia un'esagerazione, vedo ancora dichiarazioni di Sgarbi, continua a dire che si sta esagerando, che calano i morti, calano i feriti, calano i ricoverati e via dicendo, è la prima posizione comunque. Quelli che dicono che più o meno potevamo essere anche noi un pochino più attenti, la seconda posizione, quelli che dicono che è una colpa istituzionale, non si sono prese le coraggiose decisioni che andavano prese per paura di scontentare categorie di cittadini o categorie rappresentative della società. Giuseppe da Cosenza, buongiorno. Buongiorno ai colleghi. Velocissimo, sì, perché per abbiamo pochi terza. Minuti, voglio sentire più persone possibile. Giuseppe da Cosenza, sì, qual è la sua posizione? La terza assolutamente. Anche se le colpe sono pure personali, però la terza è quella assoluta. Siamo un popolo che ha bisogno del bastone, non della carota. Allora, Fabrizio, la Firenze. Eccomi. Fabrizio, quale posizione? Sì, sì. Sì, velocemente dimmi la posizione. Essendo convinto scientificamente e non fideisticamente della prima posizione, perché bisogna guardarli i dati e studiare, allora io sono convinto che la prima posizione sia quella giusta, e basta guardare la storia della medicina e delle epidemie. Beh, comunque lei si è fatto la sua opinione non basata su un atto di fede ma su un suo studio personale, che c'è un'esagerazione probabilmente, immagino, strumentale nella sua visione della gravità della situazione. È la prima posizione giustamente rappresentata anche da qualcuno, perché non possiamo far finta che non esista. Enrico da Modena. Sì, buongiorno. Io volevo dire per la prima posizione, perché senza essere fatalisti, mi sembra che usiamo la mascherina, usiamo il gel, ma alla fine chi mi salverà non sarà il gel o la mascherina, ma deciderà qualcun altro, insomma. Va bene, se lei crede in un'entità superiore che è padrone e signore di ogni evento che si manifesta in universo, è giusto che pensi questo. Esiste un disegno superiore, per cui alla fine il disegno superiore prevarrà su tutto, sarà quello che Dio vorrà. Questa è la sintesi, ma c'è anche questa posizione. Allora, visto che siamo arrivati alla fine, vi do i risultati, che ripeto non li prendete con un valore scientifico o statistico, però danno il senso. La prima posizione, quella espressa dall'ultimo ascoltatore, ha avuto il 10% delle posizioni. Le persone che pensano sia un'esagerazione, sia da un punto di vista fideistico, sia da un punto di vista di loro personale analisi scientifica. Il 40% pensa sia colpa dei cittadini, siamo stati poco scrupolosi, ma il 50% pensa che sia colpa della politica e delle istituzioni. Questo è stato il nostro contributo, limitato ma efficace. Ci sentiamo domani.